Volevo ringraziare e salutare, dato che manca la dottoressa Trevisan, che è impossibilitata causa malattia. Ecco, non vorrei così dilungarmi troppo, ma credo che una certa presentazione sia necessaria. Io credo che mai, come in questo caso, valga l'affermazione abbastanza perentoria di Buffon, che poi è stato più volte ripreso, come voi sapete tutti, che lo stile c'est l'homme, no? Lo stile è l'uomo, cioè il personaggio, la persona dell'intellettuale Giancarlo Mariani si rispecchia totalmente nella sua opera. Questi sono dei racconti, diremo, burleschi, per usare un'espressione che c'è anche in italiano, ma è forse più familiare e in ambito musicale, burlesque, sia in ambito francese. Ma sono, ecco, dei racconti in genere brevi, non direi delle novelle, che esprimono sostanzialmente uno spirito irriverente, caustico, ironico e direi abbastanza, appunto di irrisione sostanziale rispetto al mondo. C'è un'espressione che è intraducibile non perché sia un'espressione, diciamo, pornografica o altro, ma croquignol in francese, cioè come dire, sono racconti croccanti e un po' scabrosetti, ecco, un po' diciamo che hanno in sé degli elementi che sono poi gli elementi della grande letteratura comica di ogni tempo. Io farò solo alcuni cenni, vabbè, a parte naturalmente i riferimenti classici che sono molto forti, ma direi testi più recenti, relativamente recenti, che ormai sono dei classici, no? Il Gargantua et Pantagruel, Gargantua et Pantagruel di Rabelais, e in Italia La secchia rapita di Tassoni, no? Questi sono indubbiamente i riferimenti. Lo dico non a caso perché il Mariani ha scritto anche varie cose liriche dove diciamo la classicità del verso si scontra in genere con anche spesso di impronta ariostesca, post-ariostesca, il Tasso viene ampiamente diciamo citato, non citato letteralmente, ma rifatto, però in una chiave che è totalmente diversa. Il Tasso, come sanno, intendo Torquato naturalmente, non il padre, era una persona complessivamente molto molto seriosa. Ecco, il nostro autore è decisamente altro. Vorrei così ricordare ancora che tra l'altro ha tradotto testi estremamente così in questa direzione, anche se inversi, per esempio con la traduzione di Wilhelm Pusch che ha fatto. Wilhelm Pusch era uno scrittore comico e satirico, come anche appunto Mariani, dove il testo mi raccontava appunto di una traduzione dal Plattdeutsch che è notoriamente un qualcosa che non è più tedesco, e quindi diciamo richiede una traduzione molto molto diversa, no? E anche particolare, quindi il vernacolo in quel caso è stato di ausilio molto notevole. Ecco, sono volendo anche rielaborazioni in parte, non tutte, di barzellette, che, in cui il Mariani si profonde nella sua conoscenza, diciamo, e anche capacità, poi ne avremo dei saggi abbastanza ampi, spero, nella sua conoscenza, nel suo districarsi nei dialetti. C'è anche un dialetto che non è tale, che è il sardo. Il sardo è una lingua a sé, è una lingua neolatina che, appunto, come il catalano, come il provenzale, come lo spagnolo, come l'italiano, come il francese, come il romance, il ladino, il rumeno e il portoghese, e appunto il catalano e il castigliano, ha dignità di lingua, no? E qui ecco, vedremo poi come ci gioca e come la Stilmischung, la mescolanza di stile, venga ad essere anche una mescolanza di linguaggi, di idiomi, no? C'è un'altra lingua che, secondo un dialettologo, sarebbe da considerarsi una lingua, che è il romagnolo. Il romagnolo. Adesso c'è un problema per il romagnolo, perché loro sanno, ci sono le Romagne, non la Romagna. Se vanno a Imola, attenzione, Imola, non dicano mai che è Emilia, mai, perché fa già parte delle Romagne. Se vogliono farsi odiare, perché notoriamente nelle Romagne si odia Bologna, si odia, ecco, diciamo, se loro dicono Emilia, allora lì casca l'asino, anche se amministrativamente fa parte dell'Emilia, Imola, no? A parte il disastro a Imola del, come si chiama, del circuito, cos'è, Formula 1, ecco, non so nulla di queste cose, mi dicevano appunto alcuni imolesi che la Formula 1 è uno dei danni più spaventosi che sia stata, di cui siano stati vittime, ecco, diciamo. E questo è comprensibile quantomeno a livello, diciamo, percettivo, auditivo, no? Ma ecco, il romagnolo, evidentemente, tra Imola e Lugo di Romagna e il Ravennate e Forlì, e poi appunto il San Marinese è già diverso, e anche tutta la costa, l'ambito costiero, no? Molti dicono, già Forlì dicono, non fa più parte della Romagna o delle Romagne, insomma, no? L'ambito di Rimini, Riccione, eccetera, perché è già considerato imbastardito col marchigiano, quindi non so essere, non ho una conoscenza semantica bastevole per dire. Perché racconti fumosi? Ma questo lo capiscono anche dall'immagine, no? Perché come Georges Brassens, che spero conoscano, il grande chansonnier, poeta francese che è morto negli anni 80 prematuramente, poeta e chansonnier, in Francia, che è un paese civile, si studia a scuola. In Italia sarebbe improponibile, perché pornografia e tutte queste cose, vabbè, insomma, purtroppo ecco, qui interverrebbe padre Mariani, lo dico pour cause, no? Perché avevo dato il personaggio giustamente a dire che c'è una certa ingerenza, ma io non mi spingo così. Dicevo fumosi perché la pipa, appunto, come per il grande chansonnier, fa parte del corpo di Mariani, no? È proprio, non è un prolungamento, è proprio neppure un appendice, è proprio parte integrante, oserei dire, del corpo. Dicevo fumosi anche perché evidentemente il fumo può indurre a una certa, così, leggerezza di spirito, che poi si riversa e nell'ironia e nello humor. Direi che qui c'è più humor che ironia, perché l'ironia presuppone quel distacco che è anche di tipo romantico esistenzialista, che io non trovo in te, credo di non andare troppo lontano. Sono dei testi iperbolici, loro sanno, no? È una figura retorica che indica una certa Übertreibung, no? Va meglio in tedesco, esagerazione, ma anche appunto dal latino esagerazione. E in realtà poi la realtà non è così, scusate il bisticcio di parole non voluto, in realtà non siamo così distanti da quello che chiamiamo il reale, perché evidentemente c'è una satira di tipo sociale, c'è una satira di tipo culturale su un certo mondo culturale, quindi non vorrei togliervi troppo il piacere di gustare, diciamo, dalle labbra vive del Mariani il suo testo. Solo concludo dicendo appunto che troveremo il Trentino, per esempio, alternato, intendo i linguaggi, no? Alternato al sardo, tra l'altro con un personaggio che è sardo d'origine, è un prelato che però poi diciamo fa il seminario a Trento e diciamo parla a trentino, e quindi il ne vira e il ne sì si spreca, no? Oppure ecco troverete l'equivoco che invece è virato sul vernacolo, o meglio diciamo sul fiorentino, perché se io ormai lo so da anni, se dicono il vernacolo al fiorentino, se definiscono il fiorentino vernacolo, i fiorentini tirano dietro a qualcosa, perché è la lingua, è la lingua Maremma, no? Insomma, quindi non c'è scampo, per così dire. Ecco, poi appunto il romagnolo e altri idiomi, anche il piacere della scoperta e della sorpresa. Oltretutto, ecco, mi permettano di chiudere su questo. Questi quadri non sono casuali, sono le opere che Peter, io dirò sempre Piotr alla russa, che è molto più bello, Pellegrini ha prodotto appunto a commento, per così dire, delle storie marianee, diciamo marianee, perché mariane non si può dire, insomma, direi proprio non è duopo, ecco, non è duopo, ecco, e quindi direi che qui ci siamo, e troveranno anche poi delle simpatiche sorprese, molto interessanti queste opere, che prego poi di guardare anche prima eventualmente della lettura o prima della, non so, adesso vedremo, della esposizione che appunto Giancarlo Mariani ci farà. E ecco, questo è un altro aspetto. Mariani è un attore nel senso letterale, e no, è un attore nel senso proprio, ecco, del giocare con le parole, con i sintagmi, poi vedremo come, appunto, no? Con l'alternanza di idiomi, eccetera. Tutto questo in Mariani c'è, e molto fortemente. In realtà, ecco, l'eredità della cultura classica in Mariani si sente sempre, c'è sempre, però non pesa, ecco, non è un qualcosa che venga a, non so come dire, a operare in qualche modo quello che dice o quello che scrive. In altri, anche magari de me favola narratur, può essere così. Ecco, in Mariani no, c'è fortissima la presenza, appunto, rilevavo prima, delle presenze così, di autori classici, intendo classici a partire insomma, dalla classicità greco-latina e poi tutti i classici fino al 1800, ma anche fino al primo Novecento, perché no? E poi vedranno loro, perché ci sono continue ecco, avvisaglie anche di citazioni che vengono da Dante, vengono da Manzoni, solo che sono virate altrimenti, dirette, no? Cioè vengono, per così dire, transfunzionalizzate, no? Cioè vengono a adempiere ad un altro compito, ad un'altra funzione che è spesso, diciamo, diversa da quella che originariamente penseremmo poter attribuire, no? A certe diciamo, espressioni, a certe frasi, a un certo intrico anche linguistico. Ecco, intrico linguistico, però lo stile, anche per quello dicevo, ero partito un po' da Buffon, non è uno stile complicato, non è uno stile ipotattico, cioè fatto di un sacco di proposizioni subordinate, no? La proposizione subordinata, quando c'è, in genere direi che prevalga addirittura l'ipotassi, la paratassi, però quando c'è l'ipotassi è assolutamente funzionale, cioè sono proposizioni finali, sono proposizioni causali, cioè a dire esprimono il telos, cioè il fine di un'azione, oppure la causa, se sono proposizioni causali, dell'azione stessa. Cioè non c'è in Mariani, non so come dire, un compiacersi stilistico, questo manca, no? È un tratto che, ecco, mi scuserò per la presentazione che ho cercato di tenere, salvo insomma in qualche momento, abbastanza seria, ma il testo è direi gioiosamente non serio e gioiosamente appunto volto al comico, volto al burlesco, volto appunto all'iperbole e al grottesco in certe parti anche. Grazie. Ecco qua. Allora leggerò alcuni pezzi in 4-5 lingue. Ecco. Il primo sarebbe il seguente: mo chi sono ben le baldracche, mo Laura, voi sbarbini d'altri tempi, vi ricordate ben della Zaira, della Delzeis, della Zoraide? Perché se mi diceste a Marcard Brise sarebbe una bugia. Quelle tre ragazzuolone che gestivano quella casetta così ospitale, proprio ben nell'immediato dopoguerra, sulla riva del fiume Lamone, mo ben quello del Stefano Peloni il passatore, al confine fra San Marin e la nostra Romagna. E la del Geise, mo guarda ben te che cosa non si fa per trattare bene i clienti, andava a comperare i goldoni su Repubblica, perché lassù costavano di meno. Erano tempi difficili. Per fortuna gli affari andavano bene. Veniva la gente da Faenza e da Imola, da Furlè e anche fin da Ravenna. E qualche volta arrivava persino qualche pullman da Bologna. Quando si dice saper lavorare a dovere, proprio come Dio comanda. E quella volta che era arrivato un timidone in divisa, mo con quei striscioni rossi sulle braghe, ben, ti suona il campanello e va bene ad aprire la Zoraide, Questo lo so di sicuro, perché quel giorno la Zaire è andata in Repubblica per fare la spesa. E la Zaire era tutta occupata con un pulmino di ospiti venuti fin da Piacenza. Mosè, la Zoraide sorride e sussurra: ragazzuol, combiniamo. E quell'altro tutto rosso: va buono signore, combiniamo. Ma alla Zoraide si affaccia improvviso un sospetto: mo senti ben Beethoven, quanto hai per le tasche? Tengo 300 lire. Mo con 300 lire ti puoi far bene una raspa. E richiude la porta. Dopo 5 minuti risuona il campanello: ma come, ancora tacca, che caso vuoi? Pagare. A quel punto la Zoraide si era talmente commossa che quasi non voleva incassare. E adesso le tre amiche, smessa ormai l'attività da un bel po' d'anni, si erano trasferite a Brisigalla, dove gestiscono un bel localino dove quasi ogni sera si balla il lissio. E se ne stavano lì sulla porta a guardare il passeggio. A Serpont passa un bel ragazzone abbronzatissimo, proprio un bel moro dal petto viloso, che si intravedeva dalla blusa semi aperta, con una catenina d'oro, con appesa una patacca grande a sé, con l'immagine della Madonna. Vediamo un ben, faceva il bagnino a Riccione, e la patacca serviva per aumentare il suo fascino davanti alle turiste. E ci sapeva fare lui con le turiste. Ogni anno che tornava la Riccione era quasi la fila, e per tutte aveva pronta una frase gentile: do you remember my darling, my member? E tutte rispondevano: I remember my darling, I remember. Ma non entriamo troppo nella sua vita privata e lasciamolo passare sotto gli occhi delle nostre tre vecchie amiche. All'improvviso, da dietro l'incrocio, gli piomba bene addosso una pattuglia in borghese con le pistole spianate. Stai fermo, non ti muovere! Noi siamo degli intelligenti! Credeva di passare inosservato? Sappiamo che sei di Al-Qaeda, dove è? Ma quale Al-Qaeda, Al-Qaeda? Io sono l'Alvise Moretti e faccio il bagnino a Rizzone. Alvise! E credete forte c'hanno dell'intelligenza? Tutti i nomi che cominciano per Al, arabi sono! E poi Moretti, che cognome romagnolo è? E chi crede prendere in giro? Mori, arabi, turchi, iracheni, Moretti, arabetti, turchetti, iracheni. Dovevi studiartela meglio. Ed avevano lì già le manette. Mubrisax, un arabo, sono romagnolo e cattolico, doc. Così dicendo tira fuori la patacca dal petto viloso e comincia a baciarla freneticamente. Mo vedete ben che bacio la Madonna, noi vogliamo Dio, Vergine Maria, più cattolico da sé. Ma quelli non cedevano e le nostre vecchie amiche guardavano perplesse. E quando stavano per mettergli già le manette, Alvise ha un bel lampo di genio. Aveva sentito dire una volta che gli islamici sono circoncisi. Ecco che tira fuori l'attrezzatura, gridando: mo controllate ben, Brisax sono circoncis, più romagnolo e cattolico da sa. E quelli dell'intelligenza controllano, si consultano un istante, e il capo pattuglia poi dice: va buono, per questa volta le lasciamo andare, ma comportati bene che tenemmo d'occhio. E l'Alvise Moretti via come una freccia, mentre quelli dell'intelligenza se ne vanno borbottando. E le nostre tre amiche si guardano perplesse. Sacciamo ben, sussurra la Zoraide. Mo credono più al caso che alla Madonna e poi vanno a dire che eri noi le padracche. Thank you. Questa invece è sardo trentina. Sul nome de su masculeddu. E tutti voi sapete dov'è Osidda? Su paese a cavallo tra Sagallura e sul Gudoru, che voi continentali, rispettivamente, provincia di Tatarimano e di Nogoro chiamate. Ebbene, a Osidda un allevatore di ovini vive, che già 7 figli e femmine tiene, e con la moglie sempre si lamenta su cunde sa bagassa che 7 figli e femmine macuddau che nello ville fare non ci sanno la teda mi rovinano. Era già stato al santuario di Montegonare per impetrare la grazia, ma niente, ogni volta una femmina. E gridava piangendo dall'alto del suo soprammonte. E l'eco luttuosa rispondeva da su Monte Ortobene in quel di Nugoro. E rispondeva pure il lugubre bramire dei mufloni che da quando sono stati dichiarati specie in via di estinzione, sempre più lugubre fatto si è. Ed ogni domenica, scendendo fino a Osidda per recarsene a sa iglesia, provava e riprovava con la moglie. E dopo tutti questi tentativi il miracolo accade. Nascio su masculedu. Contento era. E tutta Osidda invitava. Monica Sarda, e Vernazza, e Vermentino, e Cannonau, e anche Angelo Rugiu, e Chiaretto del Campidanno per le signore. E dopo da su parroco si recau. Benedicite parroco, su masculino mio battezzare devo. Il parroco, sardo d'antica famiglia fin dai tempi degli Etruschi, lo accolse benevolmente. Ma si sa, se un ragazzino dimostra intelligenza e voglia studiare, in un paese di montagna come Osidda, il prete te lo manda a fare a scuola in qualche città. E il destino volle che il bambino, futuro parroco, capitasse a studiare allo spermaterio arcivescovile di Trento. Sempre meglio la radice greca che quella, dove trovò tanto affetto ed amore, ma dove anche perse il suo idioma. E fu condannato a parlare in trentino per sempre. Su masculino mio, riprese l'allevatore di ovini, battezzare devo. Ma bravo, le sì, rispose il parroco. L'è nato finalmente il matelot. E lui è contento. Contento sono. Dopo 7 figli e femmine che nell'ovile fare non si sanno e la gente mi rovinano. E allora, come dovevamo chiamarlo sto bel matelot? È un nome grandioso, eterno, infinito, immortale, esiguo. Allora, potremmo chiamarlo Francesco, come il nostro presidente Cosiga, che ne sardo anche lui. Francesco non mi piace. E allora Antonio, come l'anima santa dell'onorevole Segni, è il nostro compianto statista. Statista non mi piace. Allora Ligi, come il nostro gran pittore Sassu, che la illustra la Sardegna nel mondo intero. A Ligi non mi piace. E da quel punto il parroco, benché animato da cristiana carità e da religioso fervore e da francescana pazienza, cominciò piano piano a spazientirsi. E allora dica lui come ha chiamato il matelot. Deu! Rispose con guizzo d'orgoglio l'allevatore d'ovini. Anima santa, benedetta e paradiso, devono sepol! Si interpose allora il parroco segnandosi ripetutamente con prostrata devozione. E perché non si può? Ribatté l'allevatore d'ovini con astio. Ma vai, ne sì, veda il momento di ragionare. E di che cosa momento ragionare devo? Ma vai, signor porco! E l'equivoco, c'è un vecchino che muore, Sì, beh, è morto. Il vecchino poveretto non sa nulla. Si ritrova di fronte a un portale tutto d'oro zecchino che quello di Battistello di Firenze poteva sembrare una bischerata. È perplesso, non sa dove si trovi. Si picchia, un si picchia. Oh, via, si picchia! Ed ecco che il portalone si spalanca e appare un vecchio maestoso, vestito di una gran tunica bianca, come bianca è la barba e bianco il portamento. Di dentro se ne esce una musica celestiale, un profumo mai sentito da naso umano, una luce che pure abbagliante si poteva comunque sopportare. Ebbene, buon vecchino, domanda il vecchio maestoso, come mai siete qui? Ne so una sega, risponde il vecchino perplesso. Ma come vi chiamate, buon vecchino? Ne so una sega, son vecchio, son morto e c'ho pure l'Alzheimer, risponde il vecchino smarrito. E allora, buon vecchino, seguitemi in ufficio nella reception, replica il vecchio maestoso. Ora vedremo ricostruire la vostra vita. E il vecchino smarrito lo segue. Si accomoda dentro l'ufficio e il vecchio maestoso comincia con l'interrogatorio. Or dunque, buon vecchino, voi dove vivevate? E intanto comincia a puntare la punta della biro sul verbale dell'accettazione. E che so, riorda? Sono vecchio, sono morto! Sì, avete anche l'Alzheimer. Ma ditemi, abitavate in una metropoli? E qual è la metropoli? Allora in un villaggio. Ma via, te tu c'hai ragione! L'era proprio un villaggio! Ed il vecchio maestoso registra sul verbale. Intorno al villaggio che c'era? Boschi, deserti, pianure, montagne, colline. Mo, mi pare ci fossero colline! E avanti in questo modo, sempre verbalizzando. E sulle colline che c'era? Alberi, arbusti, deserto, abeti, ulivi. Oh, via! Te tu mi fai ricordare! L'era tutto un oliveto! Ecco, vedete, mio buon vecchino, che stiamo ricomponendo la vostra vita. E giù a verbalizzare. Ed in questo villaggio olivoso, che cosa facevate? L'operaio, il parroco, il dottore, l'artigiano. Oh, via! Mi sembra proprio facessi l'artigiano. Bene, bene, bene, bene. Il fabbro, il bottaio, la rotina, il falegname. Ma te tu sei miracoloso! Te tu fai ricordare proprio tutto. Facevi il falegname. E giù verbalizzando. Ed eravate sposato. Ma, so vecchio, son morto. Però mi pare che per casa la girasse una donna con il che di turchino fra avelli. E il verbale diventa via via più frenetico. Ma, buon vecchino, figlioli ne avevate? Ma, figlioli non si può dire. Ma mi sembra ricordare che ci fosse un bardaccio per casa. L'era un giovane un po' strano. Mi sa l'abbia fatto una gran brutta fine. Mi ricordo che aveva i capelli rossi. Il verbale si fa quasi nevrotico. E adesso il nome lo ricordiamo insieme. Comincia forse con A, con B, con S, con G. Oh, via! Ma te tu sei un gran buaiolo! Te tu mi fai ricordare tutto! Era proprio G! E all'interno del nome c'era forse anche una doppia, doppia T, doppia F, doppia R, doppia P e qualche vocale ripetuta, non difficile da ricordare. Ma te tu sei fenomeno, mi ricordo c'era un F. A questo punto il vecchio maestoso non ce la fa più. Afferra la cornetta del telefono interno che stava sulla scrivania e tutto tremante risponde: scusate, buon vecchino. E compone in fretta un numero. Signore, chiedo scusa, è lui, è proprio lui. Portamelo su subito, rispose quasi urlando la voce dell'interlocutore. Ebbene, buon vecchino, venite con me. Il signore vi vuole conoscere, vi attende in ufficio. Ho con lei questo signore, che voleva? No, non tema, buon vecchino, mi segua tranquillamente. E salgono entrambi le scale, sempre più in alto. Ed ecco che giungono all'ufficio del signore. Il vecchio maestoso bussa, entrano entrambi e il buon vecchino si sente esortare. Ecco, ripetete al signore ciò che avete detto a me. E il vecchino risponde, non c'è problema. E ripete quanto detto laggiù in portineria. Perché il signore s'alza in scatto, apre le braccia correndo verso il vecchino. Babbo, babbo, babbo. Il vecchio meravigliato. Maremma buaiola, ma te, tu sei Pinocchio. Adesso però è gente sensibile che non è in grado di sentire cose troppo sadiche, dovrebbe uscire o turarsi le orecchie. Questa non è in dialetto, è in italiano, perché l'argomento è troppo scabroso. Testicolectomia. Più bello d'un modello di Dolce & Gabbana, l'architetto Damiano aveva avuto proprio tutto dalla vita. Sotto una bionda chioma sbarazzina che ogni tanto lisciava con la mano in vaga trascurata nonchalance che lo sgarbi avrebbe tutto da imparare, brillava malizioso di occhi azzurri da principe nordico, un vichingo, e un naso ellenico perfetto, come scolpito, incoronava la sensualità di una bocca che provocava telluriche reazioni nelle notti solitarie di innumeri fanciulle. E la voce, oh, la voce, maschia e flautata al contempo, e profonda e vellutata e suadente, una voce che a lungo restava a vibrare nei precordi di donne stupende, e più d'una era impazzita di lussuria soltanto a sentirla, che modulava ogni parola fino a renderla indimenticabile. Ed il torace, oh, il torace, con i muscoli guizzanti a fior di pelle, coperto al centro, giustamente, da un vello chiaro fulvo, ossigenato dalla bronzatura, che aveva fatto cadere in deliquio la matura Lady Macpherson, ambasciatrice di Sua Maestà la Regina presso la Santa Sede, tanto che non aveva potuto resistere all'impulso irrefrenabile di mordicchiarlo sul bordo della piscina dell'ambasciata. Poi vi si era impigliata con la dentiera e c'era voluto un bel po' per staccarnela fra il tripudio dei fotografi e il diplomatico imbarazzo del nunzio apostolico presente. E più sotto quel neo assassino, Tirabaci lo chiamavano le signore, alla base del dardo imperioso. E quante donne s'erano sentite regine stringendo quello scettro fra le mani. Infine due gambe possenti, due solide bronze colonne sostenevano tanto splendore. E aveva anche un sacco di soldi. Una vecchia prozia, Dana Rosa, l'aveva nominato proprio erede universale a condizione che si laureasse in architettura. Dicevano che nella sua turbolenta giovinezza avesse intrattenuto un rapporto tumultuoso niente meno che con Alvaro Aalto, cioè il più grande urbanista del mondo. Ma questi particolari, si sa, sono difficili da verificare. Comunque, alla laurea c'era arrivato nel giro di 10 anni. anche perché frequentava assai più le giovani linguiste di Ca' Foscari che non la facoltà decisamente troppo lontana dal centro di Preganzioli, Treviso. Ultimamente, aveva 38 anni, era aumentato di un paio di chiletti che gli si erano andati man mano distribuendo, armonicamente si intende, intorno all'addome. E contemporaneamente si erano fatti sentire i primi sintomi di un mal di testa feroce e martellante, una cefalgia massacrante che ormai si era fatta continua. Oh, le notti passate a rotolarsi mentre il dolore imperava ringhiando, e le giornate passare a fuggire la gente e a chiudersi in casa con le persiane abbassate. Di donne nemmeno parlarne, l'erotismo se n'era fuggito lontano da lui. Dover risolversi lui, sano e forte e bello, a ricorrere al medico, non l'aveva fatto mai, a parte quella volta che si era sottoposto al test dell'AIDS dopo un tumultuoso rapporto con la principessa indiana che poi si era scoperta una puttana thailandese. Ma questa volta ci voleva proprio. La visita fu accuratissima. Mi dica pure tutto, professore, io sono pronto. Quanto mi resta da vivere? Anche 100 anni? Il suo dolore si può eliminare, ma ci resta purtroppo soltanto una soluzione chirurgica. E questo che cosa significa? Testicolectomia. Testicolecto che? Purtroppo ho capito benissimo. Testicolectomia. Torno a casa sconvolto. Quella parola gli rombava negli orecchi, possente come un tuono. Testicolectomia. Testicolectomia. Un ritmo giambico, il ritmo dell'invettiva. Ed era proprio un insulto per lui del destino. Lui bello e sano e robusto, testicolectomizzato. Quegli attributi per lui erano come i gracchi per Cornelia. Passò una notte di inferno. La notte dell'innominato al confronto era come quella di un burlone a cui non fosse riuscito uno scherzo telefonico. Testicolectomizzato. Tommy, il taglio dei testicoli. Passò 3 giorni e 3 notti così. Al mattino il 4° giorno si risolse. E sia, testicolectomia! Il dolore e la disperazione l'avevano condotto a tale stadio di follia che ormai parlava più soltanto in rima. Intanto il mal di testa lo squassava come il vento che scuote le querce sui monti. Entrò in sala operatoria alla clinica Villa Balzac, venne operato e il suo mal di testa si sciolse come d'incanto. Il professore aveva visto giusto, ma adesso bisognava organizzarsi un'altra vita, chissà, forse un corso di canto con una voce come la sua. E già si prefigurava con amara autoironia la sua carriera, piano piano da baritono a tenore, da tenore a contralto e poi gradualmente da mezzo soprano e a sopranista. E le donne che aveva posseduto l'avrebbero applaudito sulla scena nelle vesti di Mimì. A lui, osciupa femmine, così l'avevano chiamato a Torre Annunziata in quei 3 giorni di servizio militare, prima dell'affrettato congedo per insufficienza toracica dovuta all'intervento urgente di un generale che pare avesse avuto la storia con la prozia Donna Rosa. Decise a questo punto di cambiare il guardaroba. Si fece confezionare degli abiti sobri e non appariscenti per passare inosservato il più possibile. E poi, alla boutique dell'intimo maschile, ordinò 2 dozzine di slip della terza misura. «Mi permetto umilmente», puntualizzò il commesso premuroso, «le consiglio la 4ª misura». «Ho detto la 3ª misura!» tagliò corto l'architetto Damiano con acidità. Da quando era stato operato, la voce gli si era fatta un pochino stizzosa. «Come lei preferisce, signore. Ma la 3ª misura le schiaccia i testicoli e così poi le viene mal di testa». Ne volete un'altra o siete stufi? La storia tanto triste del coniglietto e la morale che se ne ricava. Fino dalla più remota antichità, non solo l'Homo sapiens, ma anche l'Aristogalus cuniculus, il coniglio, vivevano in colonie più o meno numerose. E come di antiche città popolate al genere umano, potremmo avere notizie di centri ancora più antichi popolati da conigli. E chi non ricorderebbe Coniclopoli o l'antico Castrum Cuniculum o, ancora assai più recenti, Lappenburg, Hasenfeld, Rabbit Town e l'isola di Van der Haas. Ma qui non vogliamo occuparci di filologia o di storia, qui vogliamo affrontare un tema specifico. Ebbene, a bordo del Mayflower, veleggiante verso i lidi dell'America, era salito anche un gruppo di coniglietti, tutti bianchi, che si era intrufolato e nascosto nella stiva e che nel corso della traversata era diventato carnivoro, cibandosi dei topi che trovava per poter sopravvivere. E questa abitudine in seguito non si era poi del tutto cancellata. Arrivati a destinazione, mentre gli umani fondavano Boston e New Amsterdam, i coniglietti fondarono White Rabbit City. E perché questa insistenza sul white? È più che comprensibile. Nelle praterie dei dintorni vivevano pure conigliastri color della ruggine e persino i conigliacci neri. Sono cose da non credere, però è così. E i nostri coniglietti tutti bianchi volevano conservare, e anche questo altrettanto comprensibile, la propria identità e la propria purezza. Avrebbero fatto ricorso a qualsivoglia mezzo i coniglietti bianchi per l'onore e la difesa della razza. E si erano pure organizzati a dovere. Avevano persino una clinica conigliologica. Ed ecco appunto, proprio lì, che si presenta una coniglietta incinta, bianca naturalmente, che stava per partorire 1, 2, 3, 4, 5 e fino ad 11. Ma che bella cucciolata! Ed alla fine si presenta il 12°, di zampe. Ma come si fa, brutta bestia? Lo tirano fuori a fatica ed ecco apparire l'orrore. La punta dell'orecchio sinistro non era bianca, era nera. 4 infermiere che svengono. Il conigliologo viene colto da malore. E ancora adesso no, non si è ripreso. Ogni tanto deve recarsi dal conigliatra perché il suo equilibrio psichico è ancora un po' sconvolto. No, non si può. E si radunano vescovi e prelati della chiesa coniglianti e della chiesa conigliolica. E quest'ultima raccoglieva i coniglietti devoti d'origine irlandese. E il discorso è sempre lo stesso. Si deve far sopravvivere un coniglietto mezzo morto, senza zampe e senza testa, ma bianco, perché possiede un'anima immortale. Ma la bestiaccia con l'orecchia nera, questo poi no, non ha un'anima. L'aborto qui non solo è consentito, l'aborto qui è obbligatorio. E avanti, avanti, avanti. Ma voi, gentaglia incredula, ma che cosa pensate? Volete saperne più delle chiese? Ma basta con la sterile polemica che non hai portato traguardi a nessuno. Torniamo invece al nostro coniglietto. Era proprio uno scandalo. In chiesa, in tutte le chiese, i devoti ormai cantavano all'inizio della funzione domenicale un inno nuovo, terribile. Recchia nera, maledetto, tu non sei un coniglietto, che tu muoia ognuno spera, maledetto recchia nera. E così cantava pure nelle strade, al rullo dei tamburi e al suono di trombe, l'esercito della conigliezza. I rappresentanti di culti minori si mantennero su una posizione più defilata. Il rabbino della comunità conigliaica, come l'imam Abd al-Arnab, servo del coniglio in arabo, e il patriarca Conicalagora II, non si espressero. Il loro tacere venne giustamente considerato come un dignitoso silenzio assenso. La famiglia coniglietto aveva ormai dovuto cambiare cognome e trasferirsi in un altro quartiere. E a scuola il coniglietto naturalmente non era accettato neanche con l'insegnante d'appoggio. E chi mai l'avrebbe voluto appoggiare? Viveva rintanato in una grotta, povero coniglietto recchia nera. Gli avevano concesso una radio, come quei pastori sardi che avevano imparato l'italiano dalla RAI. E proprio dalla radio venne a sapere che nel bosco vicino a White Rabbit City, quello che i vecchi coniglietti d'origine francese ancora chiamavano Bois de Lapin, viveva una fatina buonissima che forniva degli ottimi consigli. Il triste coniglietto, nel cuore della notte e vestito d'una burca per non farsi riconoscere, vi si recò. Buonasera, signora Fatina. Io sono il paria di White Rabbit City. Ho sentito parlare di te. Conosco il tuo caso. Ti sono amica. Ma risolviamo insieme il tuo problema. Non è poi tanto difficile. A 100 metri da qui ci sono i binari del treno. Tu ci vai, posi bene l'orecchio sui binari, passa il treno e zac te lo taglia. Così la punta nera scompare, mezzo orecchio sparirà, ma sarai tutto bianco. In città ci sono tanti coniglietti senza un orecchio, senza una zampina, e nessuno gli rompe le scatole. E poi sarai normale come tutti. Il coniglietto felice pensò: e non sarò mai più chiamato Orecchia Nera. E se ne corse al binario. Ma, come tutti ben possono capire, il coniglietto non sapeva destreggiarsi con le ferrovie. Appoggiò la testina sopra il binario ed il treno passò, decapitandolo. Il coniglietto morì decapitato. La morale che se ne ricava: già, c'è pure tanta gente che ogni giorno perde la testa per un triangolo di peli neri. Volete ancora una o siete stufi? No, vai, vai. Ecco, questo è storicamente, realmente accaduto. Non è colpa mia. Disegni imperscrutabili. Ed eccoci a Varsavia, nel pieno del suo dolore. Corre l'anno 44. Le orde dei mangiatori di bambini, gli orrendi comunisti, mangiano i bambini, no? Maledetti pedofagi, hanno sfondato il fronte orientale e se ne avanzano voraci e minacciosi verso occidente, mentre le truppe del Terzo Reich cominciano pian piano ad annaspare. Persino le SS, il corpo più scelto, la pupilla degli occhi del Führer, potevano contare su sempre meno organici. E queste truppe scelte per il Führer erano come i gracchi per Cornelia. Erano costrette ad arruolare nuovi effettivi, ma dove e come trovarli? Ed ecco l'invento mirabile. Arruolare ragazzini quindicenni, che in tempi noiosi come quelli se ne accorrevano a frotte. Ed erano orgogliosi i quindicenni della nuova divisa fiammante che indossavano, come erano orgogliosi di credere, obbedire, combattere per la grandezza del Führer. Ma qui si poneva un problema. Di non ariani non era rimasto nessuno. Il ghetto ormai era vuoto, di zingari neanche parlarne. I turpi mangiatori di bambini, i comunisti erano fuggiti coi vigliacchi per unirsi alle orde fameliche avanzanti da Oriente. E allora che cosa restava? Restavano i preti, che in Polonia abbondano come i funghi dopo la pioggia. Ed anche quella sera al centro di Varsavia un SS quindicenne con il mitra imbracciato stava inseguendo un giovane pretino per i vicoli del ghetto deserto. Correva il sacerdote sollevando con ambo le mani la tonaca per non inciampare sul fondo stradale sconnesso. Ma in quei tortuosi vicoli, se non si conosce la vecchia città, è facile perdere l'orientamento. Ed ecco che il nostro pretino, sempre ferocemente inseguito dal sanguinario fanciullo, si trova a un certo punto in un vicolo cieco. Capisce di non avere via di scampo. La sua inutile fuga è terminata. Ed ecco loro affermarsi, staccare le mani dalla tonaca per sollevarle al cielo. Anche l'assassino inseguitore si è fermato a pochi metri di lui per prendere meglio la mira. Il dito sul grilletto si contrae sempre di più. A questo punto il giovane pretino lo guarda con occhi grondanti, perdono, ed esclama «Deus nobiscum». Dalla pronuncia si capisce subito che il prete non è di Varsavia. Vano sarebbe cercarvi quella fluida dolcezza uè piua uè uenza e quant'altro che ha resa famosa nel mondo la lingua polacca come la lingua più vocalica del mondo. Dalla pronuncia, ecco sì, vi si avverte invece l'irsuta cadenza dei popoli delle montagne meridionali, i monti Tatra, dei dintorni di Cracovia. Al che l'assassino ribatte ringhiando: Was? Lasnoviscum? Nein! Gott mit uns! Ed anche qui non si avverte la pura dolcezza del Hochdeutsch. Anche qui si tratta di un linguaggio montanaro del profondo sud dell'area germanofona. Vi si avvertono elementi tirolesi filtrati dal Boarish. Ed anche questa è una pronuncia irsuta, irsù come irsute sono le rocce delle Alpi. Anche qui sono tutte consonanti di qualche profondo dialetto avocalico. Verschwinsch, zerweizertrotti, versprichsmus. Che tradotto significherebbe togliti le palle, scompisciato imbecille. Ma prometti, vedete quante sillabe inutili. E il dito sul grilletto si piega sempre di più. Ma ecco un miracolo! Squarciarsi le nubi nell'alto dei cieli ed un rombare di tuono soprannaturale diffondersi per tutta la Varsavia. E l'Altissimo in persona si rivolge con voce donante all'assassino impazzito dal terrore. Fermo, fanciullo insipiente, tu non sparerai a quel sacerdote, te lo proibisco! Nei miei disegni imperscrutabili ho stabilito che diventerà sommo pontefice, mio vicario sulla terra. E il bimbo disperato butta il mitra lontano da sé, prostrandosi sul nudo selciato sconnesso. E di me, mio signore, che cosa accadrà? Tu sarai destinato a succedergli. Tanta brava, eh? se posso concludere brevemente, la presenza, diciamo, del sacro per negarlo deve esserci evidentemente in Mariani, no? Diciamo che però diciamo il referente forse maggiore filosofico è tale Michael Bakunin per il nostro Bakunin. E allora diciamo l'implosione della dialettica nel negativo, no? E quindi però il negativo deve rivolgersi a qualcosa in cui si è profondamente radicati culturalmente. Il negativo, è il cristianesimo fattualmente. E poi alcuni altri aspetti informativi. Dunque Brisighella è, ve lo dico perché sulle ci montagne, sono anche stato, sì, è nella cosiddetta Romagna toscana, è vicino, se avete fatto a Passo del Muraglione, ovvia. Passo del Muraglione e a Faenza, no? E lo dico perché ci sono stato e la gestrice tenutaria di Mariani, dell'hotel, non ci sono più, dopo la Merlin non ci sono più, lo sai. Ecco, diciamo, no, la gestrice dell'hotel però era colombiana. Adesso, dopo il fatto di Guiden Bertolase non si sa. Ecco, comunque, vabbè, questo solo per la storia dei coniglietti, invece, attenzione, perché lì è un tema serio e qui ci siamo, il pregiudizio. Pensate a quanti problemi ebbe il gruppo, non so se qualcuno di voi è rocchettaro come me, il gruppo Pintura Fresca di Venezia, fresca col K, no? Con la K. Sarà vero che dopo Miss Italia un Papa Nero è venuto fuori un disastro, più di 10 anni, quasi 3 lustri fa, hanno avuto addirittura una denunzia, sì, fosse stato il vescovo di Verona, no, ma quello d'allora di Venezia ha fatto su un disastro, e sembra che il Vaticano stesso. Ora, invece, ecco, la polisemia del testo, White Rabbit, vuol dire anche un'altra cosa, se qualcuno è così, più o meno ha altri interessi, come, ecco, sempre nel senso del rock, ha un significato lisergico, precisamente. Grace Lick, non so se vi dica qualcosa, i Jefferson Airplane, no? Ecco, e questo al Mariani credo che manchi, no? Perché quindi è una polisemia, però noi ci possiamo giocare, non tutto. Invece, no, dico, è meglio, cioè orienti il lettore in senso più preciso. Invece chi è più, diciamo, fanatico, ho visto anche qualche risposta, no? nel pubblico, evidentemente ha anche un'altra, un altro escamotage di lettura, diciamo. E l'architetto, non diremo mai neanche sotto tortura chi è, però potremmo dire solo che è passato da, dunque, come si chiama? Dall'azione cattolica a LC, nel senso di lotta continua. Quindi, non fare nomi. Non faccio nomi. Quindi, dicevo metricamente, anche e sia, e sia, il nome e con quanto modificato. Sei assolutamente modificato. Però, diciamo, un referente preciso c'è, e in questo caso torna metricamente per il gruppo extraparlamentare di appartenenza, ecco, no? e sia con quel che segue, che non ripeterò, insomma, ecco, ha una giustificazione perché è uno slogan, in qualche modo è mutuato da uno slogan dell'epoca. Sì. No, solo per offrire qualche pista in più e qualche divagazione, perché l'altra lì è una questione che appunto è solo nella controcultura americana, che un po', tra l'altro, perché esiste anche una cultura americana, Oserei dire che esiste una controcultura. Ah, quella sì. Se però... volete vedere i disegni di Peter Pellegrini, c'è ecco. Un po' di bibita analcolica. Eccolo qui. Analcolica, dico. Colica, e poi, sì, sì. Per chi ancora non l'avesse ed è interessato, c'è il libro col CD disponibile.